C'era una volta un re e una regina che stavano fra loro d'accordo come due anime in un nocciolo. Si amavano teneramente ed erano adorati dai loro sudditi, ma alla felicità completa degli uni e degli altri mancava una cosa: un erede al trono. La regina, la quale sapeva che il re l'avrebbe amata il doppio se avesse avuto un figlio, non lasciava mai in primavera di andare a bere certe acque che si dicevano miracolose per avere figliuoli. A queste acque ci correva la gente in folla da ogni parte e il numero dei forestieri era così stragrande che ci si trovavano di tutti i paesi del mondo. In un gran bosco, dove si andava a beverle, c'erano parecchie fontane, le quali erano di marmo o di porfido, perché tutti gareggiavano a chi le faceva più belle. Un giorno che la regina stava seduta sull'orlo d'una fontana, ordinò alle sue dame di compagnia di allontanarsi e di lasciarla sola, e poi cominciò i suoi soliti piagnistei. «Come sono disgraziata», diceva essa, «di non aver figli. Sono ormai 5 anni che chiedo la grazia di averne uno e ancora non ho potuto averla. Dovrò dunque morire senza provare questa consolazione». Mentre parlava così, osservò che l'acqua della fontana era tutta mossa. Poi venne fuori un grosso gambero e le disse: «O gran regina, finalmente avrete la grazia desiderata. Dovete sapere che qui vicino c'è un magnifico palazzo fabbricato dalle fate, ma è impossibile trovarlo perché è circondato da nuvole foltissime attraverso le quali non passa occhio mortale. A ogni modo, siccome io sono vostro servitore umilissimo, eccomi qui pronto a menarvici, se volete fidarvi alla guida di un povero gambero». La regina lo stette a sentire senza interromperlo, perché la cosa di vedere un gambero che discorreva l'aveva sbalordita dalla meraviglia. Quindi gli disse che avrebbe gradita volentieri la sua offerta, ma che non sapeva, come lui, camminare all'indietro. Il gambero sorrise e prese subito l'aspetto di una bella vecchietta. «Ecco fatto, o signora», le disse, «così non cammineremo più all'indietro. Ma vi domando una grazia. Tenetemi sempre per una delle vostre amiche, perché io non desidero altro che di esservi utile a qualche cosa». Uscì dalla fontana senza avere una goccia di acqua addosso. Il suo vestito era bianco, foderato di seta cremisi e i capelli grigi annodati dietro con nastri verdi. Non s'era mai vista una vecchietta galante a quel modo. Salutò la regina, che volle abbracciarla, e senza mettere tempo in mezzo la fece prendere per una viottola del bosco, con molta meraviglia della regina stessa, la quale, sebbene fosse venuta nel bosco migliaia di volte, non era mai passata per quella viottola lì. E come avrebbe fatto a potervi passare? Quella era la strada delle fate per andare alla fontana, e per il solito era tutta chiusa da ronchi e da pruneti. Ma appena la regina e la sua guida vi ebbero messo il piede, le rose sbocciarono improvvisamente dai rosai, i gelsomini e gli aranci intrecciarono i loro rami per formare un pergolato coperto di foglie di fiori e migliaia di uccelli di varie specie posati sui rami degli alberi sfringuellarono allegramente. Non si era ancora riavuta dallo stupore che la regina si trovò abbacinati gli occhi dallo splendore abbagliante di un palazzo tutto di diamanti. Le mura, i tetti, i soffitti, i pavimenti, i giardini, le finestre e perfino le stesse terrazze erano tutte di diamanti. Nel delirio della sua ammirazione, ella non poté trattenersi dal mandare un urlo di sorpresa e chiese all'elegante vecchietta che l'accompagnava se ciò che aveva dinanzi agli occhi era sogno o verità. «Non c'è nulla di più vero, o signora», ella rispose, e subito le porte del palazzo si aprirono e uscirono fuori 6 fate. «E quali fate?» Di più belle e di più magnifiche non se n'erano vedute in tutto il reame. Vennero tutte a fare una profonda riverenza alla regina e ciascuna le presentò un fiore di pietre preziose per poter formare un mazzo. C'era una rosa, un tulipano, un'anemone, un'aquilegia, un garofano e un melograno. «Signora», le dissero, «noi non possiamo darvi un maggior segno della nostra venerazione che permettendovi di venirci qui a visitare. Noi siamo molto liete di farvi sapere che avrete una bella principessa, la quale metterete il nome di Desiderata, perché bisogna pur convenire che è un gran pezzo che la desiderate. Quando verrà alla luce, ricordatevi di chiamarci, perché vogliamo arricchirla di tutte le più belle doti. E per invitarci a venire non dovete far altro che prendere in mano il mazzo che ora vi diamo e nominare a uno tutti i fiori, pensando a noi. State sicura che in un batter d'occhio saremo tutte nella vostra camera». La regina, fuori di sé dall'allegrezza, si gettò al collo alle fate e gli abbracciamenti durarono una mezz'ora buona. Quando ebbero finito, pregarono la regina a passare nel loro palazzo, del quale non si possono ridire a parole tutte le meraviglie. Figuratevi che per fabbricarlo avevano preso l'architetto del Palazzo del Sole, il quale aveva rifatto in piccolo quello che era in grande il Palazzo del Sole. La regina, non potendo reggere a così vivo bagliore, era costretta ogni tantino a chiudere gli occhi. La condussero nel loro giardino e frutta più belle non se n'erano mai sognate, albicocche più grosse della testa di un ragazzo e certe ciliegie che per mangiarne una bisognava farla in 4 pezzi, ed un sapore così squisito che la regina, dopo che l'ebbe assaggiate, non volle più mangiarne d'altra specie in tempo di vita sua. Tra tante meraviglie c'era anche un boschetto di alberi finti e artificiali, i quali crescevano e mettevano le foglie al pari di tutti gli altri. Impossibile ridire tutte le esclamazioni di stupore della regina, i discorsi che fece sulla principessina desiderata e i ringraziamenti alle gentili persone che avevano voluto darle una notizia così gradita. Basti questo, che non fu dimenticata nessuna parola di gratitudine e nessuna espressione di tenerezza. La fata della fontana ne ebbe la sua parte, come di santa ragione le toccava. La regina si trattenne nel palazzo fino alla sera e, innamoratissima della musica, le fecero sentire delle voci angeliche. Fu quasi affogata dai regali e dopo aver ringraziato 1000 volte quelle grandi signore, se ne venne via insieme con la fata della fontana. Tutte le persone della corte, impensierite, la cercavano di qui e di là e nessuno poteva immaginarsi dove trovarla. Ci fu perfino chi sospettò che fosse stata rapita da qualche ardito forestiero, tanto più che era ancora giovane e nel fior della bellezza. Quando la videro tornata, com'era da figurarselo, fu per tutti una grandissima festa, e perché anch'essa sentiva nel cuore una consolazione immensa per le buone speranze avute, così nel suo conversare c'era non so che di allegro e di gioiale che innamorava. La fata della fontana la lasciò, che era quasi vicina a casa, e nell'atto di dirsi addio raddoppiarono le carezze e i complimenti. La regina, trattenutasi ancora per una settimana a bevere le acque, non lasciò un giorno senza ritornare al palazzo delle fate con la sua elegante vecchietta, la quale tutte le volte si mostrava da principio in forma di gambero e finiva poi col prendere la sua figura naturale. La regina, partita che fu, divenne incinta e mise alla luce una principessa alla quale dette il nome di Desiderata, e preso subito il mazzo che aveva avuto in regalo, nominò a uno tutti i fiori che lo componevano, ed ecco che sul momento si videro arrivare le fate. Ciascuna di esse aveva un cocchio differente dall'altro. Uno era d'ebano tirato da colombi bianchi, alcuni erano d'avorio attaccati a piccoli cervi, altri di cedro e altri di legno rosa. Questo era l'equipaggio che solevano usare in segno d'alleanza e di pace, perché quando erano in collera si servivano soltanto di draghi volanti, di serpenti che buttavano fiamme dalla gola e dagli occhi, di leoni, di leopardi e di pantere, in groppa alle quali si facevano portare da un capo all'altro del mondo in meno tempo che non ci voglia a dire buongiorno o buon anno. Ma questa volta esse erano in pace e di buonissimo umore. La regina le vide entrare nella sua camera, che avevano una cera molto lieta e maestosa, e dietro di loro le nane e i nani del corteggio, tutti carichi di regali. Dopo abbracciata la regina e baciata la principessina, spiegarono il corredino, fatto di una tela così fine e così resistente da bastare 100 anni senza pericolo che diventasse lisa. Le fate la filavano da sé nelle ore d'ozio. Quanto alle trine, erano di maggior valore della tela stessa. Vi si vedeva in essa raffigurata, o col lago o col fuso, tutta la storia del mondo. Dopo di questa messero in mostra le fasce e le coperte ricamate apposta con le loro proprie mani, e in queste erano rappresentati 1000 di quei giochetti svariatissimi che servono per baloccare i ragazzi. Dacché al mondo ci sono ricamatori e ricamatrici, non s'era mai veduta una cosa meravigliosa come quella tela. Ma quando fu messa fuori dalla culla, allora la regina non poté frenarsi dal cacciare un grido di stupore, tanto quella culla sorpassava per magnificenza tutto il rimanente. Era fatta d'un legno che costava 100.000 scudi la libra. La sorreggevano 4 amorini, 4 veri capolavori, dove l'arte aveva vinto la materia, sebbene fossero tutti rubini e diamanti, da non potersi dire quanto valevano. Questi amorini erano stati animati dalle fate, per cui, quando la bambina strillava, la cullavano dolcemente e l'addormentavano, e ciò faceva un grandissimo comodo anche alla balia. Le fate presero la principessina e se la messero sui ginocchi, la fasciarono e la baciarono più di 100 volte, perché era di già tanto bella che bastava vederla per mangiarla dai baci. Quando si accorsero che aveva bisogno di poppare, batterono la loro bacchetta in terra e comparve subito una balia, quale ci voleva per una così graziosa lattante. Restava oramai soltanto da adottarla, e le fate si spicciarono a fare anche questo. Chi le diede la virtù, chi la grazia. La terza, una bellezza meravigliosa. La quarta, le augurò ogni fortuna. La quinta, buona salute. E l'ultima, la facilità di riuscire bene in tutte quelle cose che avesse preso a fare. La regina, contentissima, non rifiniva dal ringraziarla di tanti favori prodigati alla principessina, quando ecco che videro entrare in camera un gambero così grosso che passava appena dalla porta. «Oh, ingratissima regina!» disse il gambero. «Com'egli possibile?» che vi siate dimenticata così presto della fata della fontana e del gran servizio che vi ho reso menandovi dalle mie sorelle. Come? Voi le avete invitate tutte e me sola avete lasciata da parte. Purtroppo ne aveva un presentimento e fu per questo che mi trovai obbligata a prendere la figura d'un gambero la prima volta che vi parlai, appunto per farvi notare che la vostra amicizia, invece di progredire, avrebbe camminato all'indietro. La regina, disperata per la smemoraggine commessa, la interruppe e le chiese perdono. Ella disse che aveva creduto di nominare il suo fiore come quelli di tutte le altre, che era stato il mazzetto di fiori di pietre preziose quello che l'aveva ingannata, e che essa non era capace di dimenticarsi i grandi favori ricevuti, e che per conseguenza la pregava e la scongiurava a non privarla della sua amicizia e segnatamente a mostrarsi benigna verso la principessina. Tutte le fate, per la paura che volesse dotarla di miseria e di disgrazie, fecero coro alla regina per vedere di abbonirla. «Cara sorella», le dissero, «Vostra Altezza non si mostri sdegnata contro una regina che non ebbe mai in mente di farvi il più piccolo sgarbo. Lasciate di grazia codesta buccia di gambero e fatevi vedere in tutta la vostra bellezza». Come è stato detto, la fata della fontana era un po' civetta e a sentirsi lodare dalle sorelle si ammansì un poco e diventò più agevole. «Ebbene», disse, «non farò a Desiderata tutto il male che avrei voluto, perché vi giuro che era mia intenzione di rovinarla affatto e nessuno avrebbe potuto impedirmelo. Non di meno, voglio annunziarvi una cosa. Se ella vedrà la luce del sole prima che abbia compiti 15 anni, dovrà pentirsene amaramente e forse ci rimetterà la vita». Il pianto della regina e le preghiere delle illustri fate non valsero a smuoverla di un capello dalla sua sentenza. Ella si ritirò camminando all'indietro, perché non aveva voluto lasciare la sua sopravveste di gambero. Quando si fu allontanata dalla camera, la povera regina chiese alle fate se ci fosse verso di salvare la figlia dalle disgrazie che le erano state minacciate. Esse tennero consiglio fra loro e, dopo aver messi avanti parecchi partiti, finalmente si attennero a questo, che cioè bisognava fabbricare un gran palazzo senza porte né finestre, con una porta d'ingresso sotterranea, e custodirvi lì dentro la principessa fino a tanto che non avesse raggiunto l'età fatale per essere fuori da ogni pericolo. 3 colpi di bacchetta bastarono per cominciare e finire questo vasto edificio. All'esterno era tutto di marmo bianco e verde, e i soffitti e gli impianti tutti di diamanti e di smeraldi che raffiguravano fiori, uccelli e 1000 altre cose graziose. Le pareti erano tappezzate di velluto di vari colori ricamato dalle fate con le loro mani, e perché esse sapevano di storia s'erano prese il gusto di rappresentarvi i fatti storici più belli e più notevoli. C'era dipinto il passato e l'avvenire. In parecchi arazzi si vedevano effigiate le gesta dei più grandi re della terra. Le brave fate avevano immaginato questo modo ingegnoso per insegnare più facilmente alla giovine principessa i vari casi della vita degli eroi e degli altri mortali. Tutta la casa nell'interno era rischiarata soltanto a forza di lampade, ma ce n'erano tante e poi tante che pareva fosse giorno chiaro da un anno all'altro. Vi furono introdotti tutti i maestri dei quali ella poteva aver bisogno per istruirsi e perfezionarsi, e il suo spirito, la sua svegliatezza e il suo buon senso arrivavano a intendere molte cose anche prima che le fossero insegnate, ragion per cui i maestri rimanevano strasecolati per le cose bellissime che essa sapeva dire, in un'età nella quale gli altri ragazzi sapevano appena chiamare babbo e mamma. E questa è una prova che le fate non accordano la loro protezione per tirar su degli stupidi e degli ignoranti. Se la vivacità del suo spirito innamorava tutti coloro che l'avvicinavano, la sua bellezza non faceva di meno e sapeva amicarsi le persone più insensibili e i cuori più duri. La regina madre non l'avrebbe lasciata un solo minuto se il suo dovere non l'avesse tenuta presso il re. Di tanto in tanto le buone fate venivano a vedere la principessa e le portavano in regalo cose rarissime e vestiti sfarzosi ed eleganti che parevano fatti per le nozze di qualche principessa non meno bella di Desiderata. Ma fra tutte le fate che le volevano bene, quella che le voleva più di tutte era Tulipano, la quale non rifiniva mai di raccomandare alla regina che non le lasciasse vedere la luce del giorno prima di aver toccato i 15 anni. La nostra sorella, quella della fontana, è vendicativa, diceva Tulipano. Avremmo un bel pigliarci tutte le cure per questa fanciulla, ma se ella può, state certa che le farà del male, e per questa ragione bisogna, o signora, che voi siate vigilante e di molto. La regina, dal canto suo, prometteva di vegliare continuamente sopra una cosa di tanto rilievo, ma avvicinandosi il tempo nel quale la sua cara figlia doveva uscire dal castello, le fece fare il ritratto, e il ritratto fu portato a mostra nelle più grandi corti dell'universo. Al solo vederlo non vi fu principe che non si mostrasse preso di ammirazione, ma fra gli altri ve ne fu uno che ne rimase talmente invaghito da non sapersene più distaccare. Lo portò nel suo gabinetto e si chiuse dentro insieme col ritratto e, parlandogli come se fosse vivo e potesse intenderlo, gli diceva le cose più appassionate di questo mondo. Il re, non vedendo più il figliuolo, domandò che cosa facesse e come passasse il suo tempo e perché non fosse più del suo solito buon umore. Qualche cortigiano, di quelli che chiacchierano volentieri, e ve ne sono parecchi con questo vizio, gli fece intendere che c'era il caso che al principe desse volta il cervello, perché passava le giornate intere chiuso nel suo gabinetto e lì discorreva da sé solo, come se vi fosse stato qualcuno insieme con lui. Il re sentì questa cosa con dispiacere. «Com'è egli possibile?» diceva ai suoi confidenti, «che mio figlio perda così il giudizio. Lui che ne ha avuto sempre tanto». Voi sapete che finora esso è stato l'ammirazione di tutti e io non vedo nei suoi occhi alcun segno di pazzia o di aberrazione mentale, soltanto mi pare diventato più pensieroso. Bisogna che io lo interroghi da me. Forse così arriverò a scoprire qual è la fissazione che si è messa per il capo. Detto fatto, mandò per esso e quindi ordinò a tutti che uscissero dalla sala. Dopo vari discorsi, ai quali il principe non stava attento o rispondeva a rovescio, il re gli domandò il motivo che aveva portato tanto cambiamento nelle sue abitudini e nel suo carattere. Il principe, parendogli che gli fosse capitata la palla al balzo, si gettò ai suoi piedi e gli disse: «Voi avete fissato di farmi sposare la principessa nera. In questo legame di parentela voi troverete dei vantaggi che io non posso promettervi con quello della principessa Desiderata. Ma, oh signore, io trovo in questa fanciulla tante grazie e tante attrattive, quante l'altra non ne possiede davvero». «E dove le avete vedute?» disse il re. «Tanto dell'una che dell'altra mi sono stati portati i ritratti», rispose il principe guerriero. Era questo il suo nome, da che aveva vinto 3 grandi battaglie. e vi confesso che la mia passione per la principessa desiderata è così forte che se voi non ritirate la parola data alla principessa nera, non mi rimane altro che morire, felice sempre di perdere la vita, una volta perduta la speranza di essere lo sposo di quella che amo. È dunque con un ritratto, riprese gravemente il re, che passate il vostro tempo a fare certi colloqui che vi rendono ridicolo agli occhi di tutti i cortigiani. Essi vi credono svanito il cervello, e se sapeste quello che si dice di voi, non avreste faccia di parlare a questo modo di simili ragazzate. Io non ho ragione di rimproverarmi una sì bella fiamma, replicò il principe. Quando avrete veduto il ritratto di questa graziosa principessa, sono sicuro che compatirete la passione che sento per lei. Andate a prenderlo subito, esclamò il re, con tanto risentimento che dava a dividere la bizza che lo rodeva dentro. Se il principe non avesse avuta la certezza che nessuna bellezza al mondo poteva stare a fronte di quella di Desiderata, sarebbe rimasto un po' male. Invece andò subito nel suo gabinetto e poi tornò al re. Il re rimase maravigliato quanto il figlio. «Ah!» disse egli, «mio caro guerriero, io approvo la vostra scelta. Quanto alla mia corte ci sarà una principessa così graziosa, mi sentirò anch'io ringiovanito. Fin da questo momento mando subito degli ambasciatori dalla principessa nera per sciogliermi dalla parola data. E quando anche dovessi tirarmi su le braccia una guerra a morte, preferisco di farla finita una buona volta per tutte». Il principe baciò rispettosamente le mani del padre e gli abbracciò i ginocchi. La sua gioia era tanta che pareva diventato un altro. Pregò e ripregò il padre a mandare degli ambasciatori non soltanto alla principessa nera, ma anche a Desiderata, raccomandandosi che per quest'ultima fosse scelto l'uomo più capace e più ricco del regno, perché in questa grande occasione era necessario fare una splendida figura e ottenere ciò che si voleva. Il re pose gli occhi su Beccafico. Era un gran signore, eloquente quanto Cicerone e con 100.000 lire di rendita. Beccafico voleva un gran bene al principe guerriero e per andargli a genio si fece fare il più splendido equipaggio e le più belle livree che si possa immaginare. La sua fretta per allestire i preparativi del viaggio fu grandissima perché l'amore del principe cresceva a occhio di giorno in giorno ed esso era sempre lì a punzecchiarlo perché partisse. «Ricordatevi», gli diceva in tutta confidenza, «che c'è di mezzo la vita mia e che io perdo il lume della ragione tutte le volte che penso al caso che il padre di questa principessa potrebbe impegnarsi con qualcun altro senza aver modo di tornare indietro e che allora io dovrei perderla per sempre». Beccafico lo rassicurava, non fosse altro per pigliar tempo, perché, dopo le grandi spese alle quali era andato incontro, voleva almeno farsene onore. Menò seco 80 carrozze, tutte risplendenti d'oro e di brillanti, e dipinte con certe miniature da fare scomparire le miniature più finite che si siano vedute mai. C'erano, per di più, altre 500 carrozze. 24.000 paggi a cavallo, vestiti come tanti principi, e il resto del corteggio non era da sfigurare in mezzo a quella magnificenza. Quando l'ambasciatore ebbe dal principe l'udienza di congedo, questo l'abbracciò come un fratello e gli disse: «Pensate, mio caro Beccafico, che la mia vita dipende dal matrimonio che andate a combinare. Dite tutto quel che più sapete e conducete con voi la principessa, che è l'anima dell'anima mia». E gli consegnò 1.000 regali da offrirle, nei quali spiccavano in egual modo l'eleganza e la ricchezza. Erano tutte allegorie amorose, incise su gemme e diamanti, orologi incrostati di carbonchi con sopra le cifre di desiderata, braccialetti di rubini modellati in forma di cuori. Insomma, non c'era cosa alla quale non avesse pensato per trovare il modo di piacerle. L'ambasciatore portava seco il ritratto del principe, dipinto con tanta bravura e maestria che non gli mancava nemmeno la parola, e faceva dei complimenti pieni di grazia e di brio. È vero che non sapeva rispondere a tutto quello che gli si domandava, ma di questo non ce n'era un gran bisogno. Beccafico, per la parte sua, promise al principe che avrebbe fatto l'impossibile per vederlo contento e soggiunse che aveva con sé moltissimo denaro e caso mai gli avessero negata la principessa avrebbe trovato il mezzo di comprare qualcuna delle sue cameriere e l'avrebbe rapita. «Ah!» esclamò il principe, «non lo dite neanche per Celia. Sono sicuro che ella si chiamerebbe offesa da un modo di fare così poco rispettoso». Beccafico non stette a dir altro e partì. La gran diceria del suo viaggio arrivò prima di lui. Il re e la regina ne furono lietissimi perché stimavano molto il suo sovrano e conoscevano gli atti di valore del principe guerriero e, in particolar modo, il suo merito personale, motivo per cui non avrebbero potuto trovare un partito più degno per la loro figlia neanche a cercarlo apposta nelle 5 parti del mondo. Fu apprestato un palazzo per alloggiarvi Beccafico e vennero dati gli ordini perché tutta la corte si mostrasse in abito di gran gala. Il re e la regina avevano pensato di far vedere all'ambasciatore la principessa desiderata, ma la fata Tulipano venne a trovare la regina e le disse: «Guardatevi bene, regina, da menare Beccafico dalla vostra figliuola». Era solita di chiamarla così. «Non conviene che egli la veda tanto presto e non bisogna mandarla al re che l'ha domandata in sposa finché non abbia compiti i 15 anni, perché, badate bene a quello che vi dico, se ella esce fuori prima del tempo si troverà a sentirsi cascare addosso qualche grosso malanno». La regina abbracciò la buona Tulipano, le promise di darle retta e, senza perder tempo, andarono insieme dalla principessa. Intanto arrivò l'ambasciatore. Il suo seguito durò 23 ore a passare, perché egli aveva 600.000 muli con le sonagliere e i ferri d'oro e gualdrappe di velluto e di broccato ricamate in perle. Lungo la strada c'era un pigia pigia da non farsene idea e tutti correvano per vederlo. Il re e la regina gli andarono incontro, tanto erano contenti della sua venuta. Salteremo a pie pari le cose che gli disse, i complimenti che si scambiarono, perché ci vuol poco a figurarseli. Ma quando egli domandò di presentare i suoi omaggi alla principessa, rimase molto male nel sentirsi negata la grazia. «Signor Beccafico», disse il re, «se vi ricusiamo una cosa che pare così giusta, credetelo, non è un capriccio. E perché ne siate persuaso, bisogna raccontarvi la strana avventura di nostra figlia. Una fata, dal giorno che nacque, la prese a noia e la minacciò di 1000 guai se ella avesse veduto la luce del sole prima di toccare i 15 anni. Noi dunque la teniamo chiusa in un palazzo che ha i suoi quartieri più belli sottoterra. Era nostra idea di menarvici, ma la fata Tulipano ci ha comandato di non fare nulla». «Come mai, sire?» replicò l'ambasciatore. «E io dunque dovrò avere il dispiacere di tornarmene indietro senza di lei. Voi l'accordaste al re mio signore per il suo figlio. Ella è aspettata con vivissima impazienza e sarà possibile che voi vi lasciate imporre da certe fanciullaggini come sono le predizioni delle fate? Ecco qui il ritratto del principe guerriero che ho l'ordine di presentarvi. e il ritratto è così somigliante che quando lo guardo mi pare di vedere lo stesso principe in persona. E così dicendo lo scoprì. Il ritratto che era stato ammaestrato soltanto per parlare alla principessa disse: «Bella desiderata, non potete figurarvi con quanto ardore io vi attenda. Venite subito alla nostra corte e abbellitela con quelle grazie che vi fanno unica al mondo». Il ritratto non disse altro e il re e la regina rimasero tanto meravigliati che pregarono Beccafico a darglielo per portarlo a far vedere alla principessa. A lui non gli parve vero e consegnò subito il ritratto nelle loro mani. La regina non aveva fatto cenno alla figlia di ciò che accadeva in corte ed anzi aveva proibito alle dame che le stavano intorno di dirle la più piccola cosa sull'arrivo dell'ambasciatore. Ma esse non l'avevano ubbidita e la principessa sapeva già che si stava combinando un gran matrimonio. Peraltro era tanto prudente da fare in modo che la madre non si avvedesse di nulla. Quando questa le ebbe mostrato il ritratto del principe che parlava e che le fece un complimento non so se più tenero o più grazioso, ella rimase molto sorpresa perché non aveva mai veduto nulla di simile e la bella fisionomia del principe, l'aspetto sveglio e la regolarità delle fattezze non la stupivano meno delle cose che aveva dette il ritratto parlante. «Vi dispiacerebbe, disse la regina, di avere uno sposo che somigliasse a questo principe?» «Signora, ella rispose, non tocca a me scegliere. Sarò sempre contenta di colui che vi piacerà destinarmi. Ma pure, insisté la regina, se la sorte cadesse su di lui, non vi stimereste felice?» Ella arrossì, abbassò gli occhi e non rispose nulla. La regina la prese fra le braccia e la baciò più e più volte, né poté frenarsi dal versare alcune lacrime, pensando che stava sul punto di doverla perdere, perché non le mancavano oramai che 3 mesi soli a compiere i 15 anni. E nascondendole il suo dispiacere, la mise al fatto di tutto quanto la riguardava nell'ambasciata di Beccafico. E fra le altre cose le dette anche i regali che erano stati portati per lei. Essa li ammirò, lodò con finezza di gusto le cose più singolari, ma ogni pochino i suoi occhi si divagavano per andare a posarsi sul ritratto del principe con un diletto fino allora non provato mai. L'ambasciatore, vedendo che perdeva il suo tempo ad insistere perché gli dessero la principessa e che si contentavano soltanto di promettergliela, ma in modo solenne da non poterne dubitare, si trattenne pochi giorni presso il re e tornò per la posta a render conto al padrone del suo operato. Quando il principe venne a sapere che la sua desiderata non poteva averla prima di 3 mesi, dette in tali sfoghi di dolore che rattristarono tutta la corte. Non dormiva più, non mangiava nulla e diventò tristo e pensieroso. Perse il suo bel colore, passava le giornate intere sdraiato su un canapè nel suo gabinetto a contemplare il ritratto della principessa. Le scriveva ogni 5 minuti e porgeva le lettere al ritratto come se questo le sapesse leggere. Alla fine le sue forze si indebolirono a poco e cadde gravemente malato. Né ci fu bisogno di medico o di chirurgo per indovinare la cagione del male. Il re si disperava. Egli amava teneramente suo figlio e si trovava sul punto di perderlo. Che afflizione per lui! Ne vedeva rimedio alcuno che valesse a salvargli il principe, il quale non domandava altro che la sua desiderata. Senza di essa non gli restava che morire. In faccia alla gravità del caso, egli prese la risoluzione di andare a trovare il re e la regina che gli avevano promesso la figlia, a fine di scongiurarli a muoversi a compassione dello stato in cui s'era ridotto il principe e a non mandare più in lungo le nozze, le quali non si sarebbero fatte più quando essi si fossero incaponiti a voler aspettare che la principessa avesse compiuto i 15 anni. Questo passo era straordinario per un re, ma sarebbe stata una cosa anche più straordinaria se egli avesse lasciato morire il figlio che gli era più caro delle pupille degli occhi. Peraltro si inciampò in una difficoltà insormontabile, e questa era l'età molto avanzata del re, la quale non gli acconsentiva se non di viaggiare in portantina, e questa cosa si combinava male con l'impazienza del figlio, per cui egli mandò per la posta il suo fido Beccafico e scrisse delle lettere commoventissime per impegnare il re e la regina a contentarlo nei suoi desideri. Intanto Desiderata non provava minor piacere a contemplare il ritratto del re che questi non provasse a guardare quello di lei. Ogni tantino ella andava nella stanza dove era stato messo e, sebbene si ingegnasse di celare i sentimenti del suo cuore, c'era chi sapeva indovinarli. E fra gli altri Viola Ciocche e Spinalunga, che erano le sue damigelle d'onore, si accorsero di quella specie di irrequietezza che cominciava a tormentarla. Viola Ciocche l'amava di sincero amore e le era affidatissima, mentre Spinalunga aveva sempre covato una gelosia segreta per le belle virtù e per lo splendido stato della principessa. La madre di Spinalunga aveva allevata la principessa e, dopo essere stata sua governante, era divenuta sua dama d'onore. Ella dunque avrebbe dovuto amarla. Ella dunque avrebbe dovuto amarla come la cosa più cara di questo mondo, ma idolatrando essa la propria figlia e vedendo l'odio di questa per la bella principessa, non poteva neanch'essa volerle bene. L'ambasciatore che era stato spedito alla corte della principessa Nera non vi trovò lieta accoglienza, subito che si venne a sapere la bella parte che doveva fare. Questa negra era la creatura più vendicativa che possa immaginarsi, e le parve di non essere trattata troppo cavallerescamente a sentirsi dire sul viso, dopo le promesse e gli impegni presi, che essa rimaneva ringraziata e messa in libertà. Ella aveva veduto il ritratto del principe e s'era fitta in capo di voler lui a ogni costo, perché le donne nere, quando si ragiona d'amore, diventano le donne più ostinate del mondo. «Come, signor ambasciatore?» ella disse. «Forse il vostro re non mi crede abbastanza ricca o abbastanza bella? Girate per i miei stati e difficilmente ne troverete dei più vasti. Entrate nel mio tesoro reale e vedrete tanto oro quanto non se n'è mai cavato da tutte le miniere del Perù. Date finalmente un'occhiata al color morato del mio viso, alle mie labbra tumide, al mio naso schiacciato, e poi ditemi se una donna, per essere bella, non bisogna che sia fatta così». «Signora», rispose l'ambasciatore, il quale aveva una gran paura d'essere bastonato peggio che in Turchia, «io biasimo il procedere del mio sovrano, per quanto è lecito di farlo a un suddito. E se il cielo mi avesse dato il più bel trono dell'universo, saprei bene io la persona alla quale offrirlo». «Queste parole vi salvano la vita», ella disse. «Avevo fissato di cominciare da voi la mia vendetta, ma mi sarebbe parsa un'ingiustizia, perché in fin dei conti non siete voi la cagione dello sleale procedere del vostro principe. Andate e ditegli da parte mia che mi fa un vero regalo a sciogliersi con me, perché io non me la sono mai detta con le persone poco di buono». L'ambasciatore, che non vedeva l'ora di essere congedato, prese queste parole al volo e via a gambe. Ma la negra era troppo stizzita contro il principe guerriero per potergli perdonare. Salì sopra un cocchio d'avorio tirato da 6 struzzi, i quali facevano 10 miglia all'ora. Andò al palazzo della fata della fontana, che era la sua comare e la migliore amica che avesse, e dopo averle raccontata la sua avventura, la pregò con le braccia in croce perché l'aiutasse a pigliarsi una vendetta. La fata si lasciò commuovere dal dolore della figlioccia, guardò nel libro dove si dice tutto e così venne subito a sapere che il principe guerriero lasciava la principessa nera per motivo di desiderata, che egli amava perdutamente e che era stato perfino malato dalla gran passione di non poterla vedere. Bastò questa cosa per riaccendere nel cuore alla fata quella collera che oramai era quasi spenta, tanto che si poteva sperare che, non avendo più veduto la principessa dal giorno che nacque, non avrebbe più pensato a farle del male senza gli incitamenti di quella brutta moraccia. «Come?» gridò la fata. «Dunque questa sciaguratissima desiderata si è messa in capo di farmi sempre dei dispetti?» «No, no, vezzosa principessa! No, no, no, vezzosa principessa! No, carina mia, non soffrirò mai che ti si faccia un affronto. Il cielo e tutti gli elementi piglieranno parte in questa cosa. Torna pure a casa e fidati alla parola della tua buona comare.» La principessa la ringraziò e le fece dei doni di frutte e di fiori che furono moltissimo graditi. Intanto l'ambasciatore Beccafico si avanzava a spron battuto verso la città dove stava il padre di Desiderata, e appena giunto andò a gettarsi ai piedi del re e della regina. Versò un torrente di lacrime e disse, con un linguaggio da intenerire i sassi, che il principe guerriero sarebbe morto se gli indugiavano il piacere di vedere la principessa, che oramai non mancavano più che 3 soli mesi per compiere i 15 anni, che non c'era pericolo che in un tempo così corto potesse accadere qualche disgrazia, che si prendeva la libertà di rammentare che questa eccessiva credulità per certe fandonie faceva torto alla maestà reale. In una parola, tanto seppe dire e tanto seppe fare che finì col persuaderli tutti e due. Prova ne sia che anche essi si intenerirono e piansero, ripensando al pietoso stato in cui s'era ridotto il principe, e finirono col dire che pigliavano qualche giorno di tempo prima di dargli una risposta di benestare. Esso allora replicò che non poteva concedere che poche ore, perché il suo padrone era oramai ridotto al lumicino e s'era fitto in capo che la principessa non lo potesse soffrire e fosse essa medesima che studiasse tutti gli ammennicoli per rimandare la partenza dall'oggi al domani. Allora gli fu detto che nella serata avrebbe saputo quello che si poteva fare. La regina corse subito al palazzo della sua cara figlia e le raccontò ogni cosa. Desiderata sentì un gran dolore, ebbe una stretta al cuore e svenne. Così la regina poté conoscere tutta la passione del suo amore per il principe. «Non ti dar tanto alla disperazione, bambina mia», ella le disse, «tu hai la virtù di poterlo guarire. La sola cosa che mi tenga in pensiero sono le minacce fatte dalla fata della fontana al momento della tua nascita. Voglio sperare, o signora, che ci debba essere qualche ripiego per ingannare questa fata malandrina. Non potrei, per dirne una, partire in una carrozza chiusa dove non potessi vedere la luce del giorno? Questa carrozza l'aprirebbero soltanto la notte per darci da mangiare e così arriverei felicemente a casa del principe guerriero.» Il ripiego piacque molto alla regina. Ne parlò al re, il quale lo approvò, e così mandarono a chiamare Beccafico perché andasse subito a corte, dove gli dettero per cosa sicura che la principessa sarebbe partita prestissimo. E gli dissero di recarsi intanto a dare la buona novella al suo padrone, aggiungendo che per amor di far presto avrebbero tralasciato di farle il corredo e i ricchissimi vestiti quali si addicevano al suo grado di principessa. L'ambasciatore, che non capiva nella pelle dalla contentezza, si gettò di nuovo ai piedi delle loro maestà per ringraziarle e partì subito, senza aver veduto la principessa. Non c'è dubbio che ella avrebbe sentito un gran dolore nello staccarsi dal padre e dalla madre, se fosse stata meno viva in lei la prevenzione a favore del principe. Ma si danno nella vita certi sentimenti così prepotenti che fanno tacere tutti gli altri. Le prepararono una carrozza foderata al di fuori di velluto, ornato di grandi borchie d'oro, e al di dentro broccato ricamato d'argento e color di rosa. Non vi erano cristalli, la carrozza era molto grande, tutta chiusa come una scatola, e uno dei primi signori del regno teneva in custodia le chiavi che aprivano la serratura dei portelli. E perché un seguito troppo numeroso poteva essere d'impiccio, furono scelti pochi ufficiali per accompagnarla. E dopo averle date le più belle gemme del mondo e alcuni ricchissimi vestiti, e dopo gli addii che fecero quasi soffocare dai pianti e dai singhiozzi il re, la regina e tutta la corte, la chiusero nella carrozza insieme alle sue dame d'onore, viola ciocche e spina lunga. Bisogna ricordarsi che spina lunga non voleva appunto bene a desiderata, ma invece ne voleva moltissimo al principe guerriero, del quale aveva veduto il ritratto parlante. Il dardo che l'aveva ferita era così acuto che nel partire disse a sua madre che morirebbe di dolore se accadesse il matrimonio della principessa e che se voleva salvarla dalla sua tristissima sorte bisognava trovasse il verso di mandare all'aria ogni cosa. Sua madre, che era dama d'onore, le disse di darsi pace, che avrebbe cercato il modo di consolarla e di farla felice. Quando la regina fu sul punto di staccarsi dalla sua figlia, che partiva, la raccomandò non si può dir quanto a questa femmina trista. «Questo prezioso deposito», disse ella, «io lo confido alle vostre mani. Mi è più caro della vita». Abbiate cura della salute di mia figlia e soprattutto guardate bene che non vegga mai la luce del giorno. Sarebbe finita per lei. Voi sapete da quali sciagure è minacciata e però ho fissato con l'ambasciatore del principe guerriero che fino a tanto che non abbia 15 anni compiti la terranno in un castello dove non possa vedere altra luce che quella dei lampadari. La regina affogò di regali questa dama per impegnarla a stare attaccata fedelmente alle sue istruzioni ed ella dal canto suo promise di vegliare alla conservazione della principessa e di renderle minutissimo conto di tutto appena fossero arrivate. A questo modo il re e la regina, fidandosi di averla raccomandata bene, non ebbero alcun pensiero per la loro cara figlia e così sentirono meno dolore del distacco. Ma Spina Lunga, che dagli ufficiali incaricati di aprire tutte le sere la carrozza per servire la cena alla principessa, aveva saputo che si avvicinavano alla città dove erano aspettate, cominciò a metter su la madre perché compisse il suo tristo disegno prima che il re e il principe venissero loro incontro e mancasse il tempo di fare il gran colpo. Cosicché, quando fu circa l'ora del mezzogiorno e quando i raggi del sole saettavano con maggior forza, ella tagliò di netto con un gran coltello fatto apposta che aveva portato seco l'imperiale della carrozza dove stavano rinserrate. Fu quella la prima volta che la principessa desiderata vide la luce del giorno. Appena l'ebbe vista, mandò un sospiro e si precipitò fuori dalla carrozza, tramutata in una cervia bianca. E a quel modo si messe a correre fino alla vicina foresta, dove si nascose in un luogo folto e oscuro per potervi piangere, senza essere vista da alcuno, le grazie, i bei lineamenti e la elegante figura che aveva perduta. La fata della fontana, che dirigeva questa strana avventura, vedendo che tutti quelli che accompagnavano la principessa si davano un gran moto, gli uni per seguirla, gli altri per correre alla città e far avvertito il principe guerriero della disgrazia caduta, messe sottosopra cielo e terra, talché i lampi e i tuoni impaurirono anche i più coraggiosi, e in grazia del suo portentoso sapere riuscì a trasportare quelle persone molto lontano di lì, togliendole in questo modo da un luogo dove la loro presenza non le faceva punto piacere. Le sole che restassero furono la dama d'onore, Spinalunga e Viola Ciocche. Quest'ultima corse dietro alla sua padrona, facendo risuonare il bosco del nome di lei e dei suoi acuti lamenti. Le altre due, contentissime di vedersi libere, non persero un minuto per far quanto avevano già fissato. Spinalunga si infilò i vestiti di desiderata. Il manto reale, che doveva servire per le nozze, era d'una ricchezza da non potersi dire, e la corona aveva dei diamanti grossi due o tre volte il pugno della mano. Il suo scettro era d'un rubino d'un sol pezzo, e il globo che teneva nell'altra mano una perla grossa quanto il capo d'un bambino. Tutte cose bellissime a vedersi e pesantissime a portarsi addosso, ma bisognava non lasciare indietro nessuno degli ornamenti reali una volta che Spinalunga voleva farsi credere la principessa. In questo abbigliamento Spinalunga, seguita dalla madre che le reggeva lo strascico, si avviò verso la città. La falsa principessa camminava con passo maestoso. Ella era sicura che sarebbe venuta gente a incontrarla. Difatti, non avevano ancora fatta molta strada che scorsero un drappello di cavalleria e in mezzo due portantine luccicanti di oro e di gemme portati da piccoli muli ornati di lunghi pennacchi verdi, perché il verde era il colore favorito della principessa. Il re, che stava in una portantina, e il principe malato nell'altra, non sapevano che cosa pensare di queste due dame che venivano incontro a loro. I più curiosi galopparono innanzi e dalla ricchezza e dai vestiti giudicarono che dovessero essere due signore di gran riguardo. Scesero da cavallo e le salutarono con molto rispetto. «Fatemi la grazia», disse loro Spinalunga, «di sapermi dire chi c'è dentro quelle portantine». «Signora», essi risposero, «c'è il re e il principe suo figlio, che vanno incontro alla principessa desiderata». «Allora vi prego», continuò ella, «di andare a dir loro che la principessa è qui. Una fata, che è nemica della mia felicità, ha sparpagliato e disperso tutti coloro che mi accompagnavano a furia di tuoni, di lampi e di prodigi paurosi. Ma ecco qui la mia dama d'onore, la quale è incaricata di presentare le lettere del re mio padre e di tenere in custodia le mie gioie». I cavalieri, a queste parole, baciarono subito il lembo della sua veste e andarono di corsa a dire al re che la principessa si avvicinava. «Come?» egli esclamò. «Ella se ne viene a piedi e di pieno giorno?» Essi gli raccontarono ciò che ella aveva detto loro. Il principe, che smaniava di impazienza, li chiamò, dicendo loro con gran premura: Non è un prodigio di bellezza, un vero miracolo, una principessa senza confronti? Nessuno rispose, per cui il principe ne rimase stupito. Si vede proprio, egli riprese, che dovendo dirne troppo bene, preferite piuttosto non dir nulla. Signore, voi la vedrete da voi, disse il più ardito di essi, sarà che lo strapazzo del viaggio l'abbia un po' trasfigurita. Il principe rimase di stucco. Se fosse stato più in forze, si sarebbe buttato giù dalla portantina per correre ad appagare la sua impazienza e la sua curiosità. Il re scese a piedi e, avanzandosi con tutto il corteggio, raggiunse la falsa principessa. Vederla gettare un grido e tirarsi indietro di qualche passo fu un punto solo. «Chi vedo mai?» egli disse. «Ma questa è una vera perfidia!» «Sire», disse la dama d'onore, avanzandosi a faccia fresca, «ecco qui la principessa desiderata, con le lettere del re e della regina. Io rimetto pure nelle vostre mani la cassetta delle gioie che mi fu consegnata sul punto di partire». Il re serbò un silenzio sinistro e cupo, e il principe, appoggiato al braccio di Beccafico, si avvicinò a Spinalunga. Dio degli dèi, come dové egli restare, vedendo una fanciulla di una statura così sperticata da far paura? Essa era così lunga che gli abiti della principessa le toccavano appena il ginocchio, secca come un uscio, col naso che somigliava al becco ricurvo di un pappagallo, e rosso e lustro in cima come un peperone, denti più neri e disuniti di quelli non se n'è visti mai. In una parola, ella era tanto brutta quanto desiderata era bella. Il principe, che aveva sempre dinanzi agli occhi l'immagine della sua cara principessa, al vedere questa brutta befana rimase imbietolito. Non aveva fiato né per muoversi né per dire una mezza parola. Soltanto dopo averla guardata un poco con gli occhi fuor della testa, si volse al re ed esclamò: «Io sono tradito! Il meraviglioso ritratto sul quale ho vincolata la mia libertà non ha a che veder nulla con la persona che ci è stata inviata. Hanno preteso ingannarmi, ci sono riusciti, ma a me mi costerà la vita». «Che cosa intendete dire, o signore?» disse Spinalunga. «Chi è che ha cercato di ingannarvi? Sappiate, o signore, che sposando me non vi hanno ingannato davvero». Tanta sfacciataggine e tanta arroganza non aveva esempio. Per parte sua, anche la dama d'onore rincarava la dose. «Oh, mia bella principessa!» esclamava. «Dove siamo mai capitate? È forse in questo modo che si accoglie una principessa par vostro? Quale incostanza! E che razza di procedere! Il re vostro padre saprà farsene rendere ragione». «Tocca a noi farsi rendere ragione», ribatté il re. «Egli ci aveva promesso una bella principessa e ci manda invece un sacco d'ossi, una mummia da far scappare dallo spavento. Ora non mi fa più specie che egli abbia tenuto nascosto questo bel tesoro per 15 anni di seguito. Aspettava che capitasse il merlotto e la disgrazia è capitata su noi. Ma staremo a vedere come finirà». «Ma quale insolenza!» esclamò la falsa principessa. «Quanto sono sventurata di essere venuta qui, sulla parola di questa razza di gente! Guardate un po' il gran delitto di essersi fatta ritrarre un po' più bella del vero! Non sono forse cose che accadono tutti i giorni? Se per queste piccole marachelle i principi rimandassero indietro le loro fidanzate, poche, ma poche bene se ne maritarebbero!» Il re e il principe, con la bizza fino alla punta dei piedi, non si degnarono di risponderle. Salirono ciascuno nella sua portantina, mentre una guardia del corpo, senza tanti complimenti, messe in groppa al cavallo dietro di sé la principessa. la dama d'onore ebbe lo stesso trattamento e così furono menate in città, dove per ordine del re furono chiuse nel castello delle Tre Punte. Il principe guerriero restò così sbalordito da questo colpo che tutta la pena gli si rinserrò in fondo al cuore. Quando ebbe fiato per parlare, che cosa mai non disse del suo tristo destino? Egli era sempre innamorato come prima, ma non gli restava per oggetto della sua passione che un bugiardo ritratto. Tutte le sue speranze andate in fumo, tutte le sue illusioni intorno alla principessa desiderata, svanite. Non c'era disperazione da potersi agguagliare alla sua. La corte gli era divenuta un soggiorno insoffribile e pensò, appena ristabilitosi un po' in salute, di fuggirsene di nascosto in un luogo solitario e passarvi tutto il resto della sua misera vita. Confidò questa sua idea soltanto al Fido Beccafico, nella certezza che questi lo seguirebbe dappertutto, e lo scelse apposta per avere una persona con la quale potersi sfogare più liberamente che con chiunque altro del brutto tiro che aveva dovuto patire. Appena si sentì un po' meglio, partì dalla corte, lasciando sulla tavola del suo gabinetto una lunga lettera per il re, con la quale lo avvertiva che sarebbe tornato appena avesse ritrovato un po' di quiete in spirito, ma intanto lo scongiurava di pensare alla vendetta di tutti e due e di tener sempre in prigione quello spauracchio di principessa. È facile immaginarsi il dolore del re nel ricevere questa lettera. Credette morir di dolore per la lontananza di un figlio così adorato. Mentre tutti si ingegnavano a consolarlo, il principe e Beccafico facevano strada, finché in capo a 3 giorni si trovarono in una gran foresta, così oscura per la spessezza delle piante e così seducente per la freschezza delle erbe e per i ruscelletti e i fili d'acqua che scorrevano in tutti i versi, che il principe, rifinito dal lungo cammino, non essendosi ancora rimesso per bene in forze, smontò da cavallo e si sdraiò malinconicamente per terra, reggendosi il capo con la mano e per la debolezza avendo appena fiato di parlare. «Signore», gli disse Beccafico, «mentre vi riposate un poco, io anderò in cerca di qualche frutto perché possiate rinfrescarvi, e intanto darò un'occhiata per farmi un'idea del luogo dove ci troviamo». Il principe non rispose, ma gli fece segno col capo come per dirgli «sta bene». «Egli è ormai un bel pezzo che abbiamo lasciata la cervia nel bosco, voglio dire l'incomparabile principessa». Ella pianse come può piangere una cerva all'ultima disperazione, quando si accorse delle sue nuove forme specchiandosi nell'acqua di una fontana. «Come? E son io? Proprio io?» essa diceva. «Ed è per l'appunto oggi che mi trovo ridotta a subire la più trista avventura che possa mai toccare a un'innocente principessa come me, per capriccio e colpa delle fate? E quanto dovrà durare questa metamorfosi? E dove nascondermi perché i leoni, gli orsi e i lupi non mi divorino? Come potrò io cibarmi d'erba?» E via di questo passo faceva a se stessa 1000 domande e provava il più acerbo dolore che mai si possa. Se qualche cosa poteva consolarla, era il vedere che essa era una bella cervia, nello stesso modo che era stata una bella principessa. Spinta dalla fame, desiderata, si messe a mangiar l'erba con molto appetito e non sapeva intendere come questa cosa potesse stare. Quindi si accoccolò sul muschio. Intanto si fece notte, senza darsene. ed essa la passò in mezzo a spaventi così terribili da non poterseli figurare. Sentiva le bestie feroci a pochi passi di distanza e, scordandosi di essere cervia, provava ad arrampicarsi su per gli alberi. I primi chiarori del giorno la assicurarono un poco. Ammirò la levata del sole e il sole gli pareva così meraviglioso che non finiva mai di guardarlo. Tutte le grandi cose che ne aveva sentite dire le sembravano molto inferiori a quel che vedeva. Era questo l'unico svago che avesse in quel luogo deserto. Per parecchi giorni vi restò sola sola. La fata Tulipano, che aveva sempre voluto bene a questa principessa, si appassionava di cuore per la sua disgrazia. Ma d'altra parte essa era molto indispettita che tanto la regina che la figlia avessero fatto così poco conto dei suoi consigli, perché, se vi ricordate, la buona fata aveva ripetuto loro più volte che se la principessa fosse partita prima dei 15 anni compiti sarebbe stata incontro a qualche malanno. A ogni modo non volle lasciarla in balia alle ire della fata della fontana e fu essa stessa che guidò i passi di Viola Ciocche verso la foresta perché questa fida confidente potesse consolarla nella sua terribile sventura. La bella cervia se ne andava, un passo dietro l'altro, lungo un fiumiciattolo, quando Viola Ciocche, non avendo più gambe per camminare, si coricò per pigliare un po' di riposo. Tutta afflitta, stava almanaccando con la testa da qual parte volgersi per potersi imbattere nella sua cara principessa. Appena la cervia l'ebbe vista, fece tutto un salto e, passata dall'altra parte del fiume, che era abbastanza largo e profondo, venne a gettarsi addosso a Viola Ciocche e le fece un'infinità di carezze. Ella rimase stupita, non sapendo se le bestie di quel luogo avessero una simpatia particolare per gli uomini tanto da diventare umane o se la cervia la conoscesse. Perché, a dirla tale e quale, non accade tutti i giorni di vedere una cervia che faccia con tanto garbo e con tanta cortesia gli onori della foresta. Dopo averla guardata attentamente, si accorse con molta maraviglia che dai suoi occhi sgorgavano alcuni grossi lacrimoni, per cui non ebbe più l'ombra del dubbio che quella fosse la sua cara principessa. Le prese le zampe e gliele baciò con lo stesso rispetto e con la medesima tenerezza come le avrebbe baciato le mani. Provò a parlare e s'avvide che la cerva la intendeva benissimo, ma non poteva risponderle. E allora le lacrime e i sospiri raddoppiarono da una parte e dall'altra. Viola Ciocche promise alla sua padrona che non l'avrebbe abbandonata mai. La cervia le fece 1000 piccoli segni col capo e con gli occhi per farle intendere che ne sarebbe contentissima e che questa cosa la consolerebbe in parte delle sue pene. Erano state insieme tutta la giornata quando la cervietta ebbe paura che la sua fida Viola Ciocche potesse aver bisogno di mangiare e la menò in un certo punto della foresta dove aveva veduto alcune frutta selvatiche ma saporite. Viola Ciocche ne mangiò moltissime perché si sentiva morire dalla fame. Quando ebbe finita la sua cena fu presa da una grande inquietudine perché non sapeva dove si sarebbero ricoverate per dormire. Restare in mezzo alla foresta esposte a tutti i pericoli non era nemmeno da pensarci. «Non avete paura, graziosa cervia?» ella disse, «a passare la nottata qui?» La cervia alzò gli occhi al cielo e sospirò. «Ma pure», continuò Viola Ciocche, «voi avete già percorso una parte di questa vasta solitudine. Non vi son per caso punte capanne, un carbonaio, un taglialegna, un eremitaggio?» La cervia fece col capo di no. «Oh, dei!» esclamò Viola Ciocche, domani non sarò più viva. Quand'anche avessi la sorte di scansare le tigri e gli orsi, sono sicura che basterebbe la paura per uccidermi. E non crediate, mia cara principessa, che mi dispiaccia per me di perdere la vita. Me ne dispiace per voi. Povera me, lasciarvi in questi luoghi, senza un'anima che vi consoli. Si può immaginare più trista cosa? La cervietta si mise a piangere. Ella singhiozzava come potrebbe fare una persona. Le sue lacrime toccarono il cuore alla fata Tulipano, che in fondo l'amava teneramente e che, nonostante la sua disobbedienza, aveva sempre vegliato alla conservazione di lei. Per cui, apparendole tutta un tratto, le disse: «Non ho nessuna voglia di farvi dei rimproveri. Lo stato in cui vi trovate mi fa troppa pena». Cervietta e Viola Ciocche la interruppero, gettandosi ai suoi ginocchi. La prima le baciava le mani e le faceva le carezze più graziose di questo mondo, mentre l'altra la scongiurava a muoversi a pietà della principessa, rendendole le sue sembianze naturali. «Ciò non dipende da me», disse Tulipano. «Colei che le fece tanto male ha molto potere, ma io abbrevierò il tempo della sua penitenza e, per addolcirla un poco, appena si farà notte, ella lascerà le spoglie di Cervia. Ma i primi chiarori dell'alba bisognerà che la riprenda da capo e corra per la pianura e per la foresta come le altre cervie». Cessare di essere cervia durante la notte era già qualcosa, anzi molto, e la principessa dette a dividere la sua allegrezza a furia di salti e di capriole che messero di buon umore la fata. «Pigliate», disse ella, «per questa viottola e troverete una capanna decente per questi luoghi campestri». Ciò detto, sparì. Viola Ciocche obbedì e insieme con la cervia entrò nella viottola, che era lì a pochi passi, e trovarono una vecchia seduta sulla soglia della porta, che stava ultimando un canestro di giunchi. Viola Ciocche la salutò. «Vorreste voi, mia buona donna», le disse, «darmi un po' d'ospitalità insieme a questa cervia?» «Ma sì, figlia mia, che ti ospiterò volentieri. Entra pure con la tua cervia». E detto fatto, le menò subito in una graziosa camerina che aveva le pareti e l'impiantito di tavole di ciliegio. Ci erano due letti di tela bianca, biancheria finissima e ogni altra cosa così semplice e linda che la principessa ha raccontato dopo di non aver mai trovato nulla che fosse più di suo gusto. Quando fu notte buia, Desiderata cessò di essere cervia. Abbracciò più di 100 volte la sua cara Viola Ciocche, la ringraziò per l'affezione che l'aveva impegnata a seguire la sua fortuna e le promise di farla felice appena la sua penitenza fosse finita. La vecchia venne a bussare con molto garbino alla porta e, senza entrare, dette a Viola Ciocche dei frutti squisiti, dei quali ne mangiò anche Desiderata e con un grande appetito. Quindi andarono a letto, ma appena giorno, Desiderata, essendo ritornata cervia, cominciò a grattare coi piedi la porta perché Viola Ciocche le aprisse. All'atto di separarsi, tutte e due si scambiarono i segni di un vivo dispiacere, sebbene il distacco fosse di poche ore, e la cervia, lanciatasi nel fitto del bosco, cominciò a correre secondo il suo solito. Mi par di aver detto che il principe guerriero si era fermato nella foresta e che Beccafico girava in qua e in là in cerca di frutti. Era già molto tardi quando esso capitò alla casina della buona donna di cui si è già parlato. Esso si presentò con modi molto cortesi e le chiese quelle cose che gli abbisognavano per il suo padrone. La vecchina fece in un lampo a empirgli un corbello di frutta e glielo dette dicendogli: Ho paura che se passate la notte qui, a cielo aperto, vi capiterà qualche disgrazia. Io non posso offrirvi che una povera stanzuccia, se non altro sarete al sicuro dai leoni. Beccafico la ringraziò e le disse che era in compagnia di un amico e che andava a proporgli di andare a casa di lei. Difatti seppe pigliare il principe così per il suo verso che questi si lasciò menare alla casa della buona donna. La trovarono che era ancora sulla porta ed essa in punta di piedi li menò in una camera compagna a quella della principessa. E tutte e due così, accosto l'una e all'altra, che erano separate da un semplice tramezzo. Il principe passò la notte inquietissimo, secondo il solito, ma appena il sole gli batté nelle imposte della finestra, si alzò e per isvagarsi dall'uggia che aveva addosso, andò nella foresta, dicendo a Beccafico di non seguirlo. Camminò una mezza giornata senza neanche sapere dove andasse, finché capitò in un praticello abbastanza grande, tutto coperto d'alberi e d'erba di muschio. In quel punto sbucò fuori una cervia ed egli non poté resistere alla voglia di inseguirla, perché la caccia era la sua passione prediletta, sebbene ora non fosse più come una volta, da che aveva nel cuore quest'altra spina. Pur non di meno si messe dietro alla cervia e di tanto in tanto le tirava con l'arco dei dardi che la gelavano dalla paura, quantunque non le facessero il più piccolo male, perché bisogna sapere che la sua amica Tulipano vegliava in sua difesa e non ci voleva di meno della mano soccorritrice di una fata per salvarla dalla morte sotto una pioggia di colpi così bene assestati. Non è possibile essere stracchi come lo era la principessa delle cervie, così poco avvezza a questo nuovo esercizio. Alla fine ebbe la fortuna di svoltare a secco per una viottola, dove il pericoloso cacciatore, avendola persa di vista e sentendosi anch'esso stanco morto, non si ostinò a darle dietro. Passata in questo modo la giornata, la povera cervia vide con gioia avvicinarsi l'ora di tornare a casa. Infatti si incamminò verso la capanna, dove viola ciò che l'aspettava con impazienza. Entrata in camera, si buttò sul letto rifinita e grondante di sudore. Viola ciò che le faceva un monte di carezze e si struggeva di sapere che cosa le fosse accaduto. Essendo venuto il momento di perdere la sua buccia di cervia, la bella principessa riprese la sua vera sembianza e, gettando le braccia al collo della sua amica del cuore, «Povera me», disse ella, «io credeva di dover temere soltanto la fata della fontana e le bestie feroci della foresta, ma oggi sono stata inseguita da un giovine cacciatore. L'ho appena veduto, tanto io fuggivo a gambe. Mille dardi mi minacciavano una morte inevitabile e mi sono salvata non so neppur io come. Non vi conviene più andar fuori, mia bella principessa», disse Viola Ciocche. «Date retta a me, passate in questa camera il tempo fatale della vostra penitenza. Io anderò qui alla città più vicina a comprarvi dei libri perché abbiate uno svago. Leggeremo i nuovi racconti che hanno scritto sulle fate e faremo dei versi e delle canzonette». «Taci, mia cara figlia», rispose la principessa. «Mi basta la cara immagine del principe guerriero per farmi passare piacevolmente le giornate intere. Ma quella stessa potenza che mi condanna durante il giorno alla trista condizione di cervia mi forza, malgrado mio, a fare quello che fanno le cervie. Io corro, salto e mangio l'erba come esse, e in quel tempo lì una camera sarebbe per me una prigione insoffribile». Era così affaticata dalla caccia che chiese da mangiare e dopo i suoi begli occhi si chiusero fino allo spuntar dell'alba. Appena si accorse che faceva giorno, accadde la solita metamorfosi ed ella riprese la via della foresta. Il principe, dal canto suo, era tornato sulla sera a raggiungere il suo grande amico. «Ho passato la giornata», gli disse, «a dar dietro alla più bella cervia che abbia mai veduto. Più di 100 volte essa mi ha fatto cilecca con una sveltezza straordinaria. E sì che ho tirato giusto, né so capire come abbia fatto a scansare i miei colpi. Domani a giorno vo' tornare a cercarla, e questa volta non mi scappa». Infatti il giovane principe, che faceva di tutto per divagarsi da un'idea che oramai credeva un sogno, vedendo che la caccia per lui era una gran distrazione, andò di buonissima ora nello stesso punto dove aveva trovato la cervia. Ma essa aveva pensato bene di non andarvi, per paura si rinnovasse il brutto caso del giorno innanzi. Il principe guardava di qua e di là e seguitava a camminare, finché, essendo un po' accaldato, non gli parve vero di trovare delle mele che al colore erano bellissime. Ne colse, ne mangiò e di lì a poco si addormentò come un ghiro, sdraiato sull'erbetta fresca e all'ombra di alcuni alberi, sui quali molti uccelletti pareva che si fossero dati il punto di ritrovo. Mentre dormiva, la nostra timida cervia, sempre in cerca di luoghi solitari, passò da quella parte. Se l'avesse veduto subito, forse sarebbe scappata, ma trovandosi senza darsene a passare rasente a lui, non poté stare dal guardarlo. E il suo sonno gli parve così profondo che si sentì tanto sicura da fermarsi con tutto il comodo a contemplarne i bei lineamenti. Oh dei, come restò quando l'ebbe riconosciuto! Quella diletta immagine era scolpita troppo nel suo cuore perché potesse averla dimenticata in sì poco tempo. Amore, amore, che pretendi da lei? Vuoi tu che cervietta si esponga a perdere la vita per mano del principe? Non dubitare, lo farà. Essa non ha più testa per pensare alla propria sicurezza. Si accovacciò a pochi passi distante da lui e i suoi occhi, innamorati a guardarlo, non sapevano staccarsi un solo minuto. Sospirava e mandava dei piccoli gemiti finché, fattasi un po' di coraggio, si avvicinò tanto che quasi lo toccava, quando egli si svegliò a un tratto. La sua meraviglia fu grande. Riconobbe la cervia che gli aveva dato tanto da fare e che aveva cercato per tutta la foresta, e trovarsela ora così vicina gli parve quasi un miracolo. Essa non aspettò che egli tentasse di prenderla, ma fuggì con quanto ne aveva nelle gambe, ed egli dietro alla gran carriera. Di tanto in tanto si fermavano per ripigliar fiato, perché la bella cervia era stanca dal giorno innanzi e lo stesso era del principe. Ma ciò che faceva rallentare di più la corsa della cervia era, ohimè, devo dirlo, era il gran dispiacere di allontanarsi da colui che l'aveva ferita più coi suoi pregi che con le sue frecce. Egli la vedeva ogni pochino voltarsi col capo verso di lui, come per chiedergli se voleva che ella perisse per i suoi colpi, e quando egli era tocco e non tocco per raggiungerla, ella ripigliava nuova forza per scappare. «Oh, se tu potessi intendermi, cervietta mia!» gridava il principe, tu non mi fuggiresti a questo modo. Io ti amo, io ti voglio dar da mangiare. Tu sei carina e io voglio aver cura di te. Ma il vento portava via le parole, per cui non arrivavano fino agli orecchi di cervia. Alla fine, dopo aver fatto il giro della foresta, ella, non avendo più fiato da correre, rallentò il passo. Il principe invece raddoppiò il suo e la raggiunse con gioia, della quale non si credeva più capace. Vide subito che ella aveva finite le sue forze. Era tutta sdraiata per terra, come una povera bestiola, mezza morta, non aspettando altro che finire la vita per le mani del suo vincitore. ma esso, invece di mostrarsi crudele, cominciò a carezzarla. «Bella cervia», le disse, «non aver paura, vo' condurti meco e devi star sempre con me». Tagliò apposta alcuni rami d'albero, li piegò con garbo, li ricuoprì di muschi e vi sparse su delle rose, colte da una macchia che era tutta fiorita. Prese quindi la cervia fra le sue braccia, le fece appoggiare il capo sul collo e andò a posarla amorosamente sul lettino erboso fatto da lui. Poi si sedette accanto cercando qua e là dei fili d'erba che le presentava alla bocca e che ella mangiava della sua mano. Sebbene non sperasse punto di essere inteso, il principe continuava a parlare ed ella, per quanto fosse grande il piacere che provava nel vederlo, si inquietava all'avvicinarsi della notte. «Che sarà mai?» diceva fra sé e sé, «caso mi vedesse tutto a un tratto cambiar di sembianza. O fuggirà spaventato, o, se non fugge, che avverrà di me, trovandomi sola, sola in mezzo a questa foresta?» Ella si lambiccava il cervello per trovare il modo di mettersi in salvo, quando egli stesso le agevolò la strada, perché nel timore che la cervia patisse la sete se ne andò a cercare un qualche ruscello per menarvela. Ma in quel mentre che stava cercando, ella se la dette a gambe e giunse alla capanna, dove viola ciò che l'aspettava. Si gettò di nuovo sul letto, sopravvenne la notte, la sua metamorfosi cessò e prese a raccontare la sua avventura. «Lo crederai, mia cara», ella disse all'amica, «il mio principe guerriero è qui, proprio qui, in questa foresta. È lui che da 2 giorni mi dà la caccia e che dopo avermi presa mi ha fatto 1000 carezze. Oh, come è poco somigliante il ritratto che me ne fecero! Egli è 100 volte più bello, quello stesso disordine che sogliono avere i cacciatori negli abiti e nella persona non toglie nulla alla sua fisionomia geniale, anzi gli dona un certo non so che da non potersi ridire a parole. Non son io forse una gran disgraziata a dover fuggire questo principe, egli che mi fu destinato dai miei genitori, egli che mi ama ed è riamato. Non ci mancava altro che una fata che mi pigliasse a noia fin dalla mia nascita per avvelenarmi tutti i giorni della mia vita». E dette in un gran pianto. Viola a ciò che la consolò e le fece sperare che quanto prima le sue pene si cambierebbero in tante allegrezze. Il principe, appena ebbe trovato una fonte, tornò subito dalla sua cara cervia, ma la cervia non era più dove l'aveva lasciata. La cercò dappertutto, ma inutilmente, e se la prese con lei, come se l'avesse creduta, capace di ragionare. «Come è mai possibile», egli esclamò, «che io debba sempre aver dei motivi di lagnarmi di questo sesso volubile e ingannatore?» E tornò dalla buona vecchia col cuore amareggiato. Raccontò al suo fido amico l'avventura e tacciò la cervia d'ingratitudine. Beccafico non poté far di meno di ridere della bizza del principe e gli consigliò di punire la cervia la prima volta che gli capitasse sotto. «Rimango qui apposta», rispose il principe. «Dopo ripartiremo per altri paesi più lontani». Si fece da capo giorno e col giorno la principessa riprese la figura di cervia bianca. Ella non sapeva qual partito a pigliarsi, o andare negli stessi luoghi dove il principe era solito cacciare, o tenere una strada diversa per non incontrarlo. Scelse quest'ultimo partito e si allontanò di molto, ma di molto assai. Ma il giovane principe, furbo quanto lei, indovinò che essa avrebbe usata questa piccola astuzia. Ed ecco che te la colse calda calda nel più fitto della foresta, dove essa credeva di essere sicura da ogni pericolo. Appena essa lo vede, schizza in piedi, scavalca le macchie e, impaurita anche di più per il caso del giorno avanti, fugge via come il vento. Ma in quella che sta per traversare una viottola, il principe la mira così giusto che le pianta una freccia nella gamba. Ella sentì un gran male e, non avendo più forza per correre, si lasciò cadere per terra. Questa trista catastrofe non poteva scansarsi perché la fata della fontana l'aveva decretata avanti come lo scioglimento della strana avventura. Il principe si avvicinò e fu preso da un vivo dolore nel vedere la cervia che grondava sangue. Strappò alcune erbe, le accomodò sulla ferita per diminuire lo spasimo e preparò un nuovo letto di rami e di foglie. Egli teneva la testa di Cervietta sulle ginocchia e «Non sei tu, cervellino volubile», le disse, «la cagione della disgrazia che ti è toccata? Che ti aveva io fatto di male ieri da abbandonarmi a quel modo? Ma oggi non mi scappi perché ti porterò con me». La cervia non rispose nulla. E che cosa poteva dire? Aveva torto e non poteva parlare. Sebbene non sia sempre vero che quelli che hanno torto stiano zitti. Il principe la finiva dalle carezze. «Come mi dispiace di averti ferita», le diceva. «Tu mi odierai e io voglio invece che tu mi ami». A sentirlo, pareva che una voce segreta gli ispirasse quelle cose che egli diceva a Cervietta. Intanto si fece l'ora di tornare dalla buona vecchia. Egli prese la sua preda e non fu per lui piccola fatica quella di portarla addosso o di condurla a mano o di trascinarsela dietro. Essa non voleva in nessun modo andar con lui. «Che sarà di me?» diceva. «Come? E dovrò trovarmi sola con questo principe? No, piuttosto la morte!» Ella faceva la morta e gli si spiombava le spalle col peso. Il principe era in un lago di sudore e con la lingua fuori dalla fatica. E sebbene la capanna non fosse molto distante, sentiva che non ci sarebbe potuto arrivare senza qualcuno che gli avesse dato una mano. Pensò di chiamare il suo fido Beccafico, ma prima di abbandonare la preda, la legò ben bene con alcuni nastri a piede un albero, per paura che non gli scappasse. Oimè! Chi poteva mai figurarsi che la più bella principessa del mondo sarebbe un giorno trattata in questo modo da un principe che l'adorava? Essa si provò inutilmente a strappare i nastri, ma i suoi sforzi non facevano che stringerli di più e stava sul punto di strozzarsi con un nodo scorsorio. Che le stringeva la gola, quando volle il caso che Viola Ciocche, stanca di starsene chiusa in camera, uscì per prendere una boccata d'aria e passò sul luogo dov'era la cervia bianca che si dibatteva. Come rimase a vedere la sua cara principessa in quello stato! Non poté scioglierla tanto presto come avrebbe voluto, perché i nastri erano fermati con molti nodi. E mentre stava per menarla via, ritornò il principe, insieme con Beccafico. «Per quanto grande sia il rispetto che posso avere per voi, o signora», le disse il principe, Permettetemi di opporvi al furto che volete farmi. Questa cervia l'ho ferita io, è mia. Io le voglio bene e vi supplico di lasciarmela. Signore, rispose con una bella maniera Viola Ciocche, che era compitissima e graziosa quanto mai, questa cervia apparteneva a me prima che fosse vostra. Rinunzierei piuttosto alla vita che a lei, e se volete vedere com'ella mi conosce, non dovete far altro che lasciarla un po' in libertà. Animo, mia bella Bianchina, abbracciami, disse ella, e Cervietta le si gettò con le zampe al collo. Baciami qui, su questa gota, ed essa ubbidì. Toccami dalla parte del cuore. Ed essa ci portò la zampina. Fai un sospiro. Ed essa sospirò. Il principe non poté dubitare di quanto affermava Viola Ciocche. Io ve la rendo, dissegli garbatamente, ma vi confesso che lo faccio a malincuore. Ella se n'andò via, subito, con la sua cervia. Tanto l'una che l'altra non sapevano che il principe albergasse sotto lo stesso tetto. Egli le pedinava a una certa distanza e restò maravigliato vedendole entrare dalla buona vecchia che stava appunto aspettandole. Dopo pochi minuti vi giunse anch'esso e, spinto da un moto di curiosità di cui era cagione la cervia bianca, domandò alla vecchia chi fosse la giovane signora, e questa disse che non la conosceva né punto né poco, che l'aveva presa in casa con la sua cervia, che pagava bene e che viveva ritiratissima. Beccafico volle bracare e domandò dov'era la camera di quella signora, e gli fu risposto che era vicina alla sua e separata soltanto da un semplice intavolato. Quando il principe fu nella sua stanza, Beccafico gli disse o che egli si ingannava all'ingrosso o quella fanciulla doveva essere stata con la principessa desiderata e che si ricordava di averla veduta a corte quando vi andò ambasciatore. «Perché mi richiamate alla mente questi tristi ricordi?» disse il principe. «Per quale stranissimo caso volete voi che ella si trovi qui?» «Ecco ciò che non vi so dire, signore mio», soggiunse Beccafico, «ma mi struggo di vederla un'altra volta, e poiché siamo divisi da un tramezzo di legno, voglio farci un buco». «Mi pare una curiosità inutile», disse il principe mestamente, perché le parole di Beccafico gli avevano rinnovato tutti i suoi dolori e, aperta la finestra che guardava nel bosco, diventò pensieroso. Intanto Beccafico lavorava e in pochi minuti fece un buco abbastanza grande da poter vedere la graziosa principessa, la quale era vestita di un abito di broccato d'argento sparso di fiori color rosa ricamati in oro e smeraldi. I suoi capelli cadevano giù in grandi riccioli sul più bel collo che si possa vedere. Il suo carnato brillava dei più vivi colori e gli occhi innamoravano a guardarli. Viola a Ciocche stava in ginocchio davanti a lei e con alcune strisce di tela fasciava il braccio della principessa, dal quale il sangue colava in grande abbondanza, e tutte e due parevano in gran pensiero per questa ferita. «Lasciami morire», diceva la principessa, «meglio la morte che questa vita disgraziata che mi tocca fare. Che si canzona! Esser cervia tutto il giorno, veder colui al quale sono destinata senza potergli parlare, senza fargli conoscere la mia fatale sciagura. Ahimè, se tu sapessi le cose appassionate che mi ha detto sotto la mia figura di cervia, se tu sentissi la sua voce, se tu vedessi i suoi modi nobili e seducenti, tu mi compiangeresti anche più che tu non faccia, per essere in tale stato da non potergli spiegare il mio crudele destino. Immaginatevi lo stupore di Beccafico a vedere e sentire di queste cose. Corse dal principe e, tirandolo via dalla finestra, con un trasporto di gioia indicibile, «Oh, signore!» esclamò, «spicciatevi a mettere l'occhio al buco di questo intavolato e vedrete il vero originale del ritratto che ha formato per tanto tempo la vostra delizia!» Il principe guardò e riconobbe subito la sua principessa, e forse sarebbe morto di gioia se non gli fosse venuto il sospetto di essere vittima di qualche incantesimo. Difatti, come mettere d'accordo un incontro così maraviglioso col fatto di Spinalunga e di sua madre chiuse nel castello delle Tre Punte, una col nome di Desiderata e l'altra con quello di sua dama d'onore? Ma la passione lo lusingava, senza contare che abbiamo tutti un grandissimo garbo a credere ciò che si desidera. Fatto sta che nel caso suo non c'era da uscirne, o morir d'impazienza o accertarsi della verità. Senza mettere tempo in mezzo, egli andò a bussare con molta manierina alla porta della camera dov'era la principessa. Viola ciò che, non sospettando che potesse essere altri che la buona vecchia, e avendo anzi bisogno del suo aiuto per fasciare il braccio della sua padrona, corse subito ad aprire, e figuratevi come restò nel trovarsi a faccia col principe, il quale andò a gettarsi ai piedi di Desiderata. Era tale e tanta la commozione del suo animo che non poté fare un discorso filato e a modo, per cui, sebbene mi sia ingegnato di sapere che cosa balbettasse in quei primi momenti, non c'è stato nessuno che me l'abbia saputo dire. La principessa non fu meno arruffata di lui nelle sue risposte, ma l'amore, che spesso e volentieri fa da interprete fra i mutoli, c'entrò di mezzo e li persuase tutti e due che avevano detto le cose più spiritose e appassionate di questo mondo. Lacrime, sospiri, giuramenti e perfino alcuni graziosi sorrisi, insomma, ci fu un po' di tutto. La nottata passò così. Si fece giorno senza che Desiderata se ne accorgesse nemmeno, ed essa non divenne più cervia. Non c'è da potersi immaginare la sua allegrezza appena se ne avvide, ed essa voleva troppo bene al principe per indugiare a dirgliene il motivo, e così cominciò a raccontare la sua storia, e lo fece con tanta grazia e con tanta eloquenza naturale, da mettere in soggezione i primi avvocati del mondo. «Come!» esclamò il principe. «Siete dunque voi, mia graziosissima principessa, quella che io ho ferito sotto la sembianza di una cervia? Che cosa debbo fare per espiare un tale delitto? Vi basta che io muoia di dolore qui sotto i vostri occhi?» Egli era così mortificato che il dispiacere gli si vedeva dipinto sul viso. Desiderata ci pativa e sentiva più dolore di questa cosa che della sua ferita, e voleva persuaderlo che si trattava di una sgraffiatura da non darsene l'ombra del pensiero, e che, in fin dei conti, ella non poteva dolersi di un male che era stato cagione per lei di tanta felicità. Il modo col quale egli parlava era così affettuoso che non si poteva dubitare della verità delle sue parole, e perché anch'essa alla sua volta potesse essere istruita in ogni cosa, il principe le raccontò la trappoleria usata da Spinalunga e da sua madre, aggiungendo che bisognava mandar subito a dire al re, suo padre, la fortuna che egli aveva avuto di poterla finalmente trovare, perché il re si preparava appunto a muovere una guerra micidiale per ottenere soddisfazione da quell'affronto che credeva di aver ricevuto. Desiderata lo pregò di scrivergli una lettera e di mandargliela per Beccafico, e la cosa stava per essere fatta, quando ecco che la foresta tutta a un tratto risuonò di una fanfara squillante di trombe, cornette, timballi e tamburi, e parve di sentir passare gran gente lì vicino alla capanna. Il principe si affacciò alla finestra e riconobbe molti ufficiali, le sue bandiere e i suoi alfieri, ai quali ordinò di far alto e aspettarlo. Fu per quei soldati una sorpresa graditissima, perché tutti credevano che il loro principe si sarebbe messo alla testa per andare a vendicarsi del padre di Desiderata. Il padre del principe, sebbene carico d'anni, li comandava in persona. Egli si faceva portare in una lettiga di velluto ricamato in oro, e dietro a lui un carro scoperto, dove erano Spinalunga e sua madre. Appena veduta la lettiga, il principe corse subito là, e il re, stendendogli le braccia, l'abbracciò con una tenerezza veramente paterna. «E di dove venite, mio caro figlio?» domandò il vecchio. «Come mai avete potuto lasciarmi nella grande afflizione cagionatami dalla vostra lontananza?» «Signore», disse il principe, «degnatevi di ascoltarmi». Il re scese subito dalla sua portantina, e ritiratosi in un luogo appartato, il principe gli raccontò il fortunato incontro che aveva fatto e le furberie di Spinalunga. Il re, tutto contento di questa bella avventura, alzò le braccia e gli occhi al cielo in atto di rendimento di grazie, e vide in questo frattempo farsi avanti la principessa Desiderata, più bella e più risplendente di tutti gli astri riuniti insieme. Ella montava un superbo cavallo che caracollava continuamente. 100 piume di diversi colori le ornavano il capo, e i più grossi diamanti del mondo erano sparsi sul suo abito, vestita com'era da cacciatrice. Viola a ciocche, che la seguiva, non stava meno bene di lei, e questo era tutto effetto della protezione di Tulipano, la quale aveva condotto ogni cosa con molta accuratezza e buon successo. Era essa che aveva fabbricata la graziosa capanna di legno per favorire la principessa, e sotto le sembianze di vecchia l'aveva poi regalata per parecchi giorni. Dopo che il principe ebbe riconosciuti i suoi soldati, e mentre andava a trovare il re suo padre, la fata entrò nella camera di Desiderata, le soffiò sul braccio per guarirla dalla ferita e le diede gli splendidi vestiti coi quali ella si mostrò agli occhi del re, che ne rimase tanto meravigliato da stentare a credere che fosse una persona mortale. Egli le disse tutto quello che si può immaginare di più grazioso e gentile in un caso simile, e la scongiurò a non differire più a lungo ai suoi sudditi il piacere di averla per regina, perché egli continuò a dire: Io sono determinato a cedere il mio regno al principe guerriero per renderlo in questo modo più degno di voi. Desiderata gli rispose con tutta quella gentilezza che c'è da aspettarsi da una persona squisitamente educata. Quindi, gettando gli occhi sulle due prigioniere che erano nel carro e che si nascondevano il viso con le mani, ella ebbe la generosità di chiedere loro la grazia e che lo stesso carro servisse a condurle dove avessero voluto andare. Il re acconsentì al suo desiderio, ma dové ammirare il bel cuore di Desiderata e ne fece i più grandi elogi del mondo. Fu dato ordine all'armata di tornare indietro. Il principe montò a cavallo per accompagnare la sua bella principessa e, giunti alla capitale, furono ricevuti con 1000 gridi di gioia. Si allestirono i preparativi per il giorno delle nozze, giorno che fu una vera solennità per la presenza delle 6 fate amiche e propizie alla principessa. Esse le fecero i più ricchi regali che mai si possano immaginare e, fra gli altri, il magnifico palazzo nel quale la regina era stata a visitarle apparve a un tratto per aria, portato da 50.000 amorini, i quali lo posarono in una bella pianura sulla riva del fiume. Dopo un tal dono era impossibile farne altri di maggior valore. Il fido Beccafico pregò il suo signore di mettere per lui una buona parola con Viola a Ciocche e di unirlo con essa quando egli avesse sposato la principessa, ed egli lo fece volentieri. E così a questa cara fanciulla non pare vero di trovare un'occasione coi fiocchi arrivata appena in un paese straniero. La fata Tulipano, che aveva le mani bucate anche più delle sue sorelle, le regalò 4 miniere d'oro nelle Indie, perché non s'avesse a dire che il suo marito era più ricco di lei. Le nozze del principe durarono parecchi mesi. Ogni giorno c'era qualche festa di nuovo e per tutto non si faceva altro che cantare le avventure di Cervia Bianca. Se tutti i racconti delle fate dovessero aver per forza una morale, questo racconto qui non saprebbe proprio dove andare a pescarla. Salvo sempre il caso che Cervia Bianca, con la storia pietosa delle sue disgrazie, non abbia preteso di far vedere alle giovinette i grandi pericoli che ci sono a voler uscire prima del tempo fuori dell'ombra delle pareti domestiche per entrare nella luce abbagliante del gran mondo.